Mare, e dice gusto non c'è perdenza. E sapessi che non avrò che litione. Che cazzo aspetta mu fa canusci? Ne hai capito. Ottavia, andiamo a tornare a Serra Civita che gli raccrociano cioccolato. Oh, ma fa quello tu! A Serra Civita! Che non so un cioccolatino! Ecco, alla sera ci torni, ma così mi dico da pistola. Che c'è di che? Come fanno male? Va ne vediamo alla prossima puntata. Che ora vai a conoscere di un inivoro. Speriamo che la prossima volta mi fa trasmissione. E tu non fa pezzi piezzi. E infatti stai sperando con mi fa trasmissione su base Gerrotello. Alla prossima puntata di Cinna Cambiala per te.